Ad alta voce. Le Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro VI, versi 1-312. Calliope ha concluso il suo meraviglioso intreccio di favole col racconto della trasformazione in gazze delle arroganti figlie di Piero, che avevano osato sfidare nel canto le muse. Ha prestato orecchio Minerva a tutti i racconti, apprezzato il canto e la collera giusta delle dee dell'icona, e dice fra sé: «Lodare non basta, voglio esser lodata anch'io. Impunemente nessuno prenderà sotto gamba il mio nome». E decide di metter nei guai Aracne di Lidia, che dicono pretende eguagliarla nell'arte di tesser la lana. Non era famosa questa ragazza né per rango né per origini, ma solo per l'arte. Suo padre, Idmone di Colofone, tingeva la lana imbevendola di porpora della Focide. Sua madre, venuta anche lei dalla plebe, come il marito, era morta. Lei, se non che, con la sua maestria, si era fatta un nome nelle città della Lidia, anche se, nata in un'umile casa, abitava nell'umilissima Ipepa. Non di rado, per ammirare i suoi favolosi lavori, le ninfe del Monte Tmolo disertano le loro boscaglie, le loro correnti disertano le ninfe del fiume Pactolo. E non era una gioia soltanto vedere i vestiti fatti, ma come lei li faceva, un vero spettacolo, sia che agglomerasse la lana grezza in matasse, sia che la trattasse con tutte le dita, ammorbidendone i bioccoli con reiterate trazioni, fino a ridurla una nuvola, sia che la avvolgesse al fuso con pollice lieve, sia che la ricamasse con l'ago, figurava allieva di Pallade. Ma lei si offende e non vuole riconoscere tanta maestra. Si batta con me, se mi vince può farmi quello che vuole. Atena si finge una vecchia, si mette i capelli bianchi in testa e si appoggia a un bastone come non stesse in piedi e attacca a parlare così. L'età avanzata non è tutta da buttar via, con gli anni accantoni esperienza. Da Miretta, punta alla gloria di essere la più brava a lavorare la lana fra tutte le donne del mondo. Con la dea meglio darsi per vinta, supplicandola di perdonare la tua presunzione. Se tu la supplichi, lei ti perdona. Quella la guarda storto, abbandona il lavoro com'è e, trattenendosi appena dal menare le mani, tradisce la collera in una smorfia e ribatte a Minerva in incognito: «Lisa dalla vecchiaia, mi stai dimostrando, imbecille, che vivere a lungo è una bella disgrazia. Conservati queste storie per una figlia, hai una figlia, o per tua nuora, ce l'hai? Io mi consiglio da me. Se credi di aver ottenuto qualcosa con la tua predica, beh, io non cambio una virgola. Come mai non viene lei? Perché evita questo confronto?» «È venuta», dice la dea, e dimesso il trucco senile, si mostra per Pallade. Si inginocchiano in adorazione ninfe e donne di Lidia. Lei sola non si scompone. E il rossore improvviso che suo malgrado le ha tinto il viso, ecco è svanito, come l'aria che al primo affacciarsi dell'aurora diventa di porpora e dopo pochissimi istanti ai raggi del sole che sorge comincia a imbiancare. Persiste nel suo progetto, Aracne, e una stupida smania di vincere la perde. La figlia di Giove non si tira più indietro, non ha più consigli da dare, non rimanda la gara più. Poche storie. si piazzano l'una di fronte all'altra e tendono sui due telai l'ordito di fili sottili. La tela è fissata al tamburo. Il pettine isola i fili. Con le sue bacchette appuntite, la spola inserisce la trama che le dita distinguono ed applicano all'ordito, compattandola grazie agli scatti dei dentini del pettine. Si affrettano tutte e due, liberate le braccia provette dall'ingombro degli abiti, ingannano lo sforzo con il fervore. Qui tessono porpora, porpora passata per i calderoni di tiro e colori più tenui che si distinguono appena, come quando l'arcobaleno, rifrangendo i raggi del sole, disegna una curva immensa nella distesa del cielo, nella quale, per quanto figurino mille colori diversi, il passaggio dall'uno all'altro è impossibile percepirlo. Se vicini ti sembrano identici, lontani sono l'opposto. Al filato applicano duttili fili d'oro e così sulle tele prendono a dipanarsi soggetti dei tempi passati. Minerva ricama il dosso di Marte nell'arce di Cecrope, ricama l'antica contesa per il nome della città. I 12 dei del cielo, accigliati e maestosi, seggono con Giove nel mezzo su seggi elevati. Li riconosci uno per uno. Giove ha il portamento di un re. Il dio del mare è nell'atto di ferire col lungo tridente la dura roccia, e da quella roccia ferita zampilla acqua di mare, titolo per intitolarsi la rocca. A se stessa Pallade assegna uno scudo, un'asta appuntita, un casco in testa, l'egida a protezione del petto, e finge la terra percossa dalla sua lancia un ulivo d'argento, pesante di olive, sprigionare. E gli dèi sbalorditi e la vittoria che premia la vincitrice. Tuttavia, perché la rivale capisca con qualche esempio che prezzo deve aspettarsi per la sua pazza arroganza, aggiunge agli angoli della tela quattro altre sfide, ognuna con suoi colori e sue figurine precise. Ad uno degli angoli vedi Rodope, Trace, Conemo, oggi montagne gelate, un tempo corpi viventi che usurpavano i nomi dei massimi dei dell'Olimpo. In un altro figura il destino penoso della regina dei Pigmei, dopo averla sconfitta in gara, Giunone le ha imposto di essere gru e di muovere guerra al suo popolo stesso. Anche Antigone trovi, che un tempo ha tentato di misurarsi con la grande consorte di Giove e che la regale Giunone ha cambiato in uccello, e non possono impedire né Troia né Laomedonte suo padre, che assunte candide penne di cicogna, schioccando col becco, si applaudisse da sé. Occupa l'ultimo angolo Cinira abbandonato. Lo vedi bocconi sul marmo che abbraccia i gradini del tempio, un tempo corpi di figlia, in un mare di pianto. Giro giro orla la tela di pacifici rami d'ulivo, così conclude il lavoro ricamando l'albero proprio. La giovinetta di Lidia figura Europa, beffata dal toro, un vero toro, diresti, e un verissimo mare, e lei sembrava guardasse la terra allontanarsi, chiamasse le sue compagne, e per non lasciarsi toccare dagli spruzzi dell'acqua ritirasse i piedini impauriti, e fece Asterie che si dibatte acciuffata dall'aquila, fece Leda sdraiata sotto le ali del cigno, di più fece Giove che in veste di satiro ingravida d'una coppia di bei gemelli l'avvenente figlia di Nicteo, in veste di anfitrione te Alcmena Tirinzia seduce, fattosi d'oro te Danae, di fuoco te figlia di Asopo, Mnemosine, pastore, serpente screziato, Proserpina. Te pure Nettuno, che monti mutato in torvo giovenco, la figlia di Eolo, e che in figura di Enipeo produci gli aloidi, in figura di capro imbrogli la figlia di Bisalte. E tu, dolcissima madre delle messi, cerere bionda, te lo sei caricato stallone. Uccello se lo è caricato lei, chioma di serpi, lei madre del cavallo che vola, Melanto, delfino. Impeccabili la resa di ognuno, la resa dei luoghi. E si vede Febo in abito da contadino, poi come assunse le penne del falco, poi la criniera del leone, e in quanto pastore prese in giro Isse, la figlia di Macareo. Bacco, fingendosi grappolo d'uva, Erigone seduce, e Saturno, cavallo, crea Chirone biforme. Alle estremità della tela scorre un orlo elegante, dove si intrecciano a rami di edera tortile fiori. Né Pallade né l'invidia in persona avevan di che ridire dell'opera, e questo stizzisce la vergine bionda, che strappa la stoffa istoriata da celesti presi in castagna. Indi, brandendo la spola di legno del monte Citoro, colpisce 3-4 volte in fronte la figlia di Idmone. Non lo sopporta, la povera, e indignata si stringe al collo una corda. A vederla a penzolo, Atena sente pietà, la regge e dice: «Vivi, svergognata, ma pesa per aria e non ti illuda il futuro. Varrà questa stessa condanna per tutta la tua discendenza, fino ai più remoti nipoti». E se ne va, ma andando la spruzza d'un succo d'erbe d'averno, e appena a contatto con quella triste pozione le cadono tutti i capelli, il naso e le orecchie le cadono, la testa diventa minuscola, tutto il corpo rimpicciolisce. Ai fianchi, invece di gambe, le spuntano dita esilissime, il resto non è che pancia, dalla quale continua peraltro ad emettere filo ed esercita l'arte d'un tempo, da ragno. Tutta la Lidia è in fermento, e per le città della Frigia la notizia vola. In Asia Minore non parlano d'altro. Prima di sposarsi, Niobe frequentava quella ragazza, quando ragazza anche lei abitava in Meonia sul Sipilo. Però il castigo di Aracne conterranea non la dissuade dal misurarsi coi numi, né dal misurare il linguaggio. Ha di che montarsi la testa. Ma non tanto dell'arte del marito, o dei natali di entrambi, o della potenza del loro regno, Niobe si compiace, pur compiacendosene, quanto dei figli. Potresti ben dirla la più felice di tutte le madri? Non fosse così sicura di esserlo. Se non che la figlia indovina di Tiresia, Manto, un bel giorno posseduta dal nume, se ne andava vaticinando in mezzo alla strada: «Donne di Tebe, andate in massa a offrire a Latona e ai due figli di Latona suppliche e incenso, intrecciando devotamente sui capelli fronde d'alloro. Per mia bocca è Latona che ordina». Tutte quante obbediscono agli ordini. Le tebane si coronano con l'alloro prescritto ed offrono incensi e preghiere ai santissimi altari. Ma ecco che arriva Niobe col suo foltissimo seguito, vestita di stoffe frigie, sfarzose e trapunte d'oro. E per quanto l'ira consente, bellissima, chiome fluttuanti giù per le spalle, al moto elegante del capo, ristà. E guardatasi intorno con aria sprezzante: «Ma siete pazze a preferire celesti per sentito dire a chi avete blatera sotto gli occhi? Perché si adora Latona e non si brucia per me un grano d'incenso? Mio padre è Tantalo, il solo invitato alla tavola degli dèi. Mia madre è una sorella delle Pleiadi, Atlante, quel grande che sulle spalle si porta la volta del cielo, è mio nonno. L'altro mio nonno è Giove, che mi onoro sia anche mio suocero. I Frigi mi temono, sono la padrona di tutti i palazzi di Cadmo, le mura erette dalla cetra di mio marito. Con chi ci sta dentro dipendono da mio marito e da me. Nella mia dimora, dovunque io giri gli occhi, non vedo che immani ricchezze. Non basta. La mia bellezza è qualcosa di divino. Non basta. Aggiungi 7 figlie e altrettanti figli, e presto altrettanti generi e nuore. E venitemi a dire che non ho di che andare superba e che avete da preferirmi Latona, figlia di Ceo, francamente un titano come un altro, alla quale la terra, grande com'è, rifiutò un angoletto quando stava per partorire. Né cielo né terra né acqua volevan la vostra dea, finché vagabonda, esiliata dal mondo, non mosse a pietà Delo, che disse: esuli tutte e due, tu vaghi di terra in terra, io di mare in mare, e le offrì una sede precaria. E lei mise al mondo 2 figli, un settimo appena dei miei. Sono felice, qualcuno può negarlo, e felice sarò. Al proposito, c'è qualche dubbio? L'abbondanza mi mette al sicuro. Son troppo in alto perché possa nuocermi più la fortuna. Per quanti me ne sottragga, me ne restano sempre di più. Con tutto quello che ho, non temo nulla. Poniamo che del popolo dei miei figli io ne perda qualcuno. Mai mi ridurrò alla miseria di 2 figli, la bella famiglia di Latona. Poco le manca a non averne nessuno. La cerimonia è interrotta e levatevi quell'alloro dai capelli. Interrompono il rito a metà le donne di Tebe, seguitando a venerare la dea senza farsene accorgere. La dea si indigna e, salita sulla vetta del monte Cinto, rivolge queste parole ai 2 figli: eccomi qua, che vostra madre, orgogliosa di avervi creato, disposta a cedere il passo soltanto a Giunone di tutte le dee, vedo messo in dubbio il mio essere dea, mi vedo negato il culto per tutti i secoli a venire, se non mi aiutate. E non c'è solo questa. All'infamia la figlia di Tantalo aggiunge l'oltraggio, osando posporre voi altri ai suoi figli e me, definendomi una senza figli. Le vadano contro gola queste impietà del suo repertorio paterno. Ciò detto, Latona è pronta a passare alle suppliche quando Febo, smettila, dice, differisce il castigo, lagnarsi. La sorella si associa e in un attimo, scivolando per l'aria, nascosti in un nuvolone, si posano sopra la rocca di Cadmo. A ridosso di quei bastioni si stende un'ampia pianura, senza tregua battuta dai cavalli, dove il gran numero di ruote e gli zoccoli duri han fatto smottare il terreno. Lì parte dei 7 figli di Anfione montano fior di cavalli, inforcate le groppe vestite di porpora tiria, si accingono a governare redini cariche d'oro. Uno di loro, Ismeno, il primo di quanti la madre avesse portato in pancia, che orienta col morso la bocca schiumosa del suo animale, tracciando un cerchio perfetto, «Che mi succede?» grida, e ha una freccia piantata nel mezzo del petto. Gli sfuggono le redini dalla mano di uno che muore e piano piano scivola a destra giù dal cavallo. Lì vicino, sentito nell'aria un tintinnio di faretra, Sipilo allenta le briglie, come il pilota che annusa tempesta e fugge a vedere una nuvola, tutte mollando le vele, così da non perdersi il minimo refolo d'aria. ma per quanto allenti le briglie, lo insegue inesorabile un dardo che gli si ficca vibrando sotto la nuca e dalla gola la punta di ferro gli sbuca. Lui, curvo in avanti, rotola sulla criniera e in mezzo alle zampe lanciate al galoppo e imbratta la terra di sangue bollente. Il povero Felimo e Tantalo, erede del nome del nonno, finito il turno a cavallo, eran passati tutti scintillanti agli esercizi giovanili della palestra e già brancati stretti lottavano petto contro petto quando scoccata dal nervo teso una freccia, così come sono abbinati, tutti e due li trapassa. Gemono insieme, insieme crollano a terra, corpi spezzati dal dolore. Insieme, sdraiati in terra, stralunano gli occhi per sempre e l'anima esalano insieme. Alfenore, nel vederli, si straccia le vesti e si batte il petto e si precipita ad alzare quei corpi gelati abbracciandoli e cade in quell'atto pietoso. Tant'è, il dio di Delo gli rompe il cuore col ferro assassino. Lui tenta strapparselo via, ma estrae con la punta brandelli di polmone e col sangue l'anima gli svapora nell'aria. Non una sola ferita affligge il bel Damasictone dai lunghi capelli, ma due, colpito dove comincia la coscia e i tendini fanno quella giuntura molliccia, mentre con una mano tenta di estrarre la freccia, una seconda in gola gli si tuffa fino alle penne della cocca. Il fiotto del sangue la espelle e schizza con lei altissimo e spruzza lontano, trapanando il cielo. Ilioneo, ultimo della serie, protende inutili braccia supplicando: «Dei uno per uno, dei tutti quanti siete!» Infatti non sa che non tutti sono da supplicare. «Pietà!» L'arciere divino si commuove, ma il dardo non può revocarlo. Però quel ragazzo lo uccide con una ferita minima e la saetta gli entra appena appena nel cuore. La notizia della sciagura, il dolore del popolo, il pianto dei suoi non lasciano dubbi alla madre sull'entità della tragedia. Trasecola che possano tanto, si indigna che osino tanto gli dèi, che ne abbiano facoltà. Dal suo canto Anfione, il padre si pianta un ferro nel petto e mette fine morendo insieme alla vita e al dolore. Ah, questa niobe, com'è diversa da quella niobe che poco fa scacciava il popolo dagli altari di Latona e incedeva con aria sprezzante per la città, malvista dai suoi, che ora fa pena anche ai nemici. Si abbatte sui corpi gelati e a tutti quei figli dispensa senza ordine gli ultimi baci, senza ordine gli ultimi a caso. Poi, staccando da loro le livide braccia e levandole al cielo, «Ingozzati!» grida Latona spietata del nostro dolore. «Ingozzati, ingozzati pure, e abbevera il cuore al mio pianto. Quel cuore feroce, sazialo. Sono stata sepolta per 7 volte. Esulta di questo tuo trionfo, nemica mia!» «Ma quale trionfo? Per misera che io sia, son sempre più ricca di te felice. Anche dopo tanti morti, chi vince sono io!» Dice, e si sente vibrare la corda d'un arco teso che terrorizza tutti, eccetto Niobe, lei sola. La disgrazia le monta la testa. Vestite di nero, vegliano coi capelli sciolti sui feretri dei fratelli le 7 sorelle. E quella che tenta di estrarre dalle viscere un dardo languisce premendo la bocca sul corpo di un fratello e muore. Già un'altra, che fa per consolare la povera madre, di colpo ammutolisce, piegata in due da una piaga nascosta. ma quando chiuse le labbra, la vita se n'era già andata. Questa fa per fuggire e crolla, quell'altra sulla sorella stramazza. Questa si accuccia, l'altra non fa che tremare. Sei sorelle, immolate alla morte dalle più diverse ferite, restava l'ultima. Con tutto il corpo, con tutta la veste, le fa scudo la madre e grida: «Lasciami la più piccola, di tante una ne chiedo, sì, la più piccola, questa». Ma mentre prega, quella per cui sta pregando è già morta. Ora siede fra corpi di figli, figlie, marito, da sola, rigida di dolore. Non le muove capello il vento, il sangue non le colora il viso, gli occhi si sgranano nelle orbite a lutto, non dà a vedere traccia di vita. La lingua stessa all'interno del palato indurito congela e dentro le vene è cessato qualsiasi moto, non può piegarsi il collo, le braccia non riescono a muoversi, i piedi a camminare, anche dentro le viscere è fatta sasso. Ma piange, piange e ghermita da una bufera di vento è trascinata in patria. Là, sulla cima di un monte, continua a struggersi e i marmi ancora trasudano lacrime.